Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Andremo avanti fino alle ore 21:30, ma andiamo subito con la sigla di questa trasmissione. Bene, questa era la sigla iniziale di questa trasmissione, che è Zardins Magnetics, che inizia alle ore 20 e andrà avanti fino alle ore 21:30, oggi 4 luglio 2024. Ricordo che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. La sigla che abbiamo ascoltato era Retribution dei Behind Enemy Lines. E ora invece andiamo all'ascolto di un brano che magari è un po' di mesi che non li passiamo. Loro sono i Kalashnikov, band milanese, e dal loro album Dreams for Super Defeated Heroes ci ascoltiamo un paio di brani, album uscito attorno al 2010. Thank you. Sul sottile ponte terrestre che lega l'Asia con l'Africa, dove passa il canale di Suez, sulle rive del Mar Rosso e lungo il mare Indiano e quello arabico, fino al Golfo di Bassora, dove è la strada per l'India, in tutto questo spazio vive un unico popolo legato dalla stessa storia, religione, lingua e speranza. Insomma, tutti gli ingredienti di una potenziale forza rivoluzionaria. Un popolo, quindi, con grandi ambizioni e in grande crescita naturale, come dimostra l'enorme espansione demografica. 39 milioni oggi, che potranno arrivare a 100 in un secolo. La domanda è: come sarà la situazione nella zona se questo popolo riesce ad unificarsi e se questa forza sarà indirizzata in un'unica direzione? Cosa succederà se questa forza si svilupperà? Se questo succederà, sarà il colpo mortale al colonialismo. E un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Zardins Magnetics di oggi giovedì 4 luglio. E questo che vi ho appena letto era un brano da una relazione che era stata tenuta segreta e poi è stata resa pubblica alla vigilia della Prima Guerra Mondiale da un giornalista britannico sionista. La relazione era del ministro degli esteri britannico in occasione di un congresso di paesi coloniali del 1907. Questa introduzione è appunto l'introduzione di un opuscolo che sono andata a rileggermi, così a riprendere in mano in questi giorni, opuscolo che riguarda la presenza di Israele a Expo Milano 2015. E l'opuscolo si intitola Meraviglia delle meraviglie, come far fiorire il deserto rubando l'acqua ai palestinesi, ed è stato prodotto da Acrati Autoproduzioni di Bologna. Allora, questo opuscolo, è, anche se sono passati quasi 10 anni, insomma 9 anni, è comunque molto interessante, fa emergere un sacco di cose sulle quali nell'attualità si sta proprio riflettendo, e non solo, insomma. Diciamo che tante cose quasi 10 anni fa erano ancora in divenire, poi si sono affermate in maniera più definitiva dal punto di vista appunto di Israele come laboratorio di sperimentazione continua, perenne, di mezzi atti a opprimere e a sopraffare, e non solo dal punto di vista militare, appunto anche dal punto di vista delle varie tecnologie che riguardano l'agricoltura e in generale il dominio del vivente. Allora, intanto, questo opuscoletto qua appunto parlava di l'Expo 2015 di Milano, ce lo ricordiamo insomma bene, anche perché ci sono state diverse azioni di disturbo a quella kermesse distopica, e per fortuna ci sono state le azioni di disturbo. E appunto questo opuscolo, dicevo, descrive anche un po' così il come Israele si è presentata all'Expo. Allora, il padiglione suo si chiamava Fields of Tomorrow, Campi di Domani, e si trattava appunto di un padiglione disegnato dall'architetto David Knafo e realizzato da Avant Video Systems, con materiali al 100% riciclabili. E il padiglione Israele sorgeva al fianco di padiglione Italia, infatti l'Italia è il quarto partner commerciale di Israele. Allora, si trattava di un padiglione spettacolare, 2369 metri quadri verdi, con una parete verticale esterna lunga 70 metri e alta 12, sulla quale fiori, erba e piante vive, ispirate a coltivazioni quali grano, mais e riso, cambiavano colore con il passare del tempo. Appunto, la struttura non aveva un ruolo meramente estetico, ma introduceva anche il vertical planting, cioè una tecnologia appunto per poter dare origine a coltivazioni in verticale, che loro definiscono tecnologia, loro gli israeliani definiscono tecnologia innovativa. All'interno del padiglione poi c'era la celebrazione della storia di Israele e dell'avanguardia raggiunta nel campo tecnologico e agroambientale. E l'architetto, appunto, che ha creato questo padiglione, spiegava che nel progettare il padiglione Israele abbiamo voluto evidenziare il ruolo dell'architettura nel promuovere i temi della sostenibilità, salvaguardia delle risorse naturali e della dedizione al benessere sociale per le generazioni future. Infatti l'intera struttura sarà riciclata al termine dell'esposizione, quindi già qui vediamo questa, l'utilizzo di questi termini che diciamo rovesciano termini usati e che rovesciano completamente il significato che hanno, insomma. E, addirittura i portavoce del governo israeliano all'Expo 2015 a Milano dicevano che la sfida tecnologica dello Stato di Israele ha uno scopo umanitario, cioè il suo scopo è il contrasto del surriscaldamento globale. Allora, intanto vale la pena di dire che già in quell'anno c'erano insomma espliciti riferimenti a collegamenti e collaborazioni tra Israele e l'Università di Udine, con la non mi ricordo se al tempo già si chiamava Fondazione Friuli, comunque le facoltà di agraria. Allora, Confagricoltura collabora dal 2012 con l'Ambasciata di Israele in Italia e tra le attività congiunte c'è l'organizzazione di seminari su tecnologie e innovazioni agricole. Il pomodoro di Pachino, solo per fare qualche esempio, è israeliano. È frutto di una varietà di semi introdotti in Sicilia dalla Asera Genetics, che ha inserito nell'ortaggio due geni per conservarli a lungo. Nel 2013 alcuni ricercatori sono stati invitati da viticoltori del Friuli per spiegare come dare acqua alle vigne. Difatti Israele era anche già allora all'avanguardia nel sistema a goccia. In Italia sono in essere collaborazioni con l'Università di Verona, con il Centro di Genomica di Fiorenzuola d'Arda, con la Fondazione Edmund Bach di San Michele all'Adige e con l'Università di Udine. E i progetti variano dalla risposta allo stress idrico della vite alla genetica del frumento. Ma vediamo come Israele fa fiorire il deserto, appunto. Allora, questo opuscoletto, Meraviglia delle Meraviglie, Israele a Expo Milano 2015, ha dati del 2015, ma comunque insomma gli ordini di grandezza sono quelli. Ci dice che di tutte le falde acquifere che attraversano la Cisgiordania, Israele ne sfrutta il 73%. L'autorità palestinese il 17% e il rimanente è assorbito dagli insediamenti dei coloni. Quando i contrasti tra israeliani e palestinesi assumono connotazioni particolarmente violente, una delle prime rappresaglie da parte dell'autorità di Tel Aviv è quella di impedire le forniture d'acqua ai palestinesi. Allora, questa la storia, diciamo, dell'appropriazione delle risorse idriche da parte di Israele ai danni della popolazione palestinese è iniziata già nel 1919, quindi ha una lunga storia. E l'opuscolo ripercorre un po' tutta questa vicenda, insomma, e poi magari vi do i riferimenti se volete andare a leggere l'opuscolo integralmente. Ma arriviamo però al contenuto di questa appropriazione dell'acqua, che è un contenuto che va oltre la semplice angheria, diciamo, ma mira all'annientamento del popolo palestinese. Israele ha trasformato l'acqua in un'arma di annientamento lento e graduale. Cisgiordania e Gaza soffrono la sete, mentre le comunità rurali dipendono dalle magre forniture israeliane. Il consumo domestico pro capite da parte dei palestinesi che vivono in Cisgiordania si attesta intorno ai 25-30 litri al giorno, un livello decisamente inferiore ai 150 litri raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La politica israeliana di controllo delle risorse idriche ha determinato una situazione in cui, con una popolazione di Israele che non è neppure il doppio di quella palestinese, il suo consumo idrico totale è di 7 volte superiore. In Cisgiordania i coloni israeliani sfruttano le risorse idriche 9 volte di più rispetto alla popolazione palestinese, ciò non solo grazie a una serie di condutture costruite ad hoc dal governo israeliano, ma anche per la facilità con cui i coloni ottengono l'autorizzazione per scavare nuovi pozzi. Il consumo medio e annuale di un israeliano, che sarebbero 357 metri cubi, è 4 volte superiore a quello di un palestinese della Cisgiordania. Il consumo domestico di un cittadino israeliano è 3 volte maggiore di quello di un palestinese. La situazione poi nella striscia di Gaza è ancora peggiore a causa di una serie di fattori quali la sovrappopolazione, l'embargo imposto sulla striscia, il livello di contaminazione della falda acquifera, la scarsità delle precipitazioni. Tutte queste concause stanno determinando una diminuzione annuale, e siamo nel 2015, ricordo, pari a 15-20 centimetri della falda acquifera utilizzata dagli abitanti della striscia. L'enorme quantità d'acqua utilizzata dagli israeliani, unitamente alle scarse piogge, fanno sì che l'acqua prelevata sia quasi sempre superiore a quella di ricarica della falda. Ciò determina un abbassamento nel livello, a sua volta a causa di infiltrazioni d'acqua salmastra che diminuiscono la quantità di acqua potabile presente nella falda acquifera. Dall'occupazione in Cisgiordania e a Gaza, tra il 70 e l'80% delle città e dei villaggi palestinesi non ricevono che qualche ora d'acqua a settimana, obbligando la popolazione a fare delle riserve nei bidoni, anche in condizioni igieniche dubbie, mentre le postazioni militari israeliane e le colonie sono alimentate 24 ore su 24. È stato stimato che il 44% dei bambini palestinesi nelle zone rurali soffre di diarrea, la principale causa di morte dei bambini sotto i 5 anni nel mondo per la scarsa qualità dell'acqua e degli standard di igiene. L'acqua palestinese viene rubata e convogliata in Israele a costo zero, poi una parte viene rivenduta alle città palestinesi. In questo modo Israele sta rubando ai palestinesi sia l'acqua che il denaro. Tel Aviv esercita il suo potere attraverso la lentezza della burocrazia, il blocco della maggior parte delle licenze e dei permessi per i nuovi impianti idrici in Cisgiordania, ponendo come condizione la reciproca approvazione da parte dei palestinesi dei progetti negli insediamenti. L'obiettivo del governo israeliano è quello di distruggere le risorse idriche palestinesi e di contaminare i loro terreni agricoli per spingerli ad andarsene. Sobre, ¿cómo decirlo? Un tipo de trabajo que últimamente le gusta mucho a los jóvenes de España. Quelli che stiamo ascoltando sono Steven Spitzberg da Pamplona, e, con questo ultimo disco dal vivo che hanno registrato, Más Rápido Pero Sin Prisa, del 2024. Steven Spitzberg. Yo no miro regular, tu control está pisado, lo siento, no te dejo respirar. Todo el mundo te lo pide, que esa noche hay barbacoa. ¿Y tú cuándo te vas a relacionar? No me digas que, no me digas que esta noche te vas a rogar. No me digas que, no me digas que ya no quieres a trabajar. No me digas que, no me digas que tu patrón es un subnormal. Porque ya lo sé. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. El subajero está liado y ahí no quieres ayudar. Todo el mundo que te mira y un francés está acercado y te acusa y de haberle robado. No me digas que, no me digas que no has podido reciclar. No me digas que, no me digas que el paro francés no te va a llegar. No me digas que, no me digas que los italianos que te quemaban. Porque yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Porque yo también. Yo también. Porque yo también. Yo también. Porque yo. Oye, ¿qué está tan bien? Gracias, Peña. Muchas gracias. E adesso invece ci ascoltiamo un pezzo di un altro gruppo spagnolo che sono i Butrón, con gli stessi componenti di qualcuno dei Steven Spitzberg. Questo pezzo si chiama Chatarra. Oh. Yeah. grosería, y lo que había más grosería que otra cosa ahí. E da così questa rilettura dell'opuscolo sulla presenza di Israele all'Expo di Milano del 2015 e sul furto delle risorse idriche da parte dello Stato di Israele al popolo palestinese, con il risultato di far fiorire il deserto a loro spese, sulla loro pelle, e condannandoli a, appunto, all'aridità. E dicevo, passando da questo, cioè leggendo questo opuscolo, poi sono nati altri collegamenti con altre politiche aberranti e che riguardano il presente. Sappiamo che Israele ha tutta una serie di operazioni di washing per così apparire al mondo come uno stato avanzato, moderno, anche dal punto di vista dei diritti, diciamo, dei diritti civili, e anche delle sensibilità che sono emerse, insomma, negli ultimi decenni. L'ultimo di questo washing riguarda il vegan washing, e cioè nel dicembre 2023 praticamente è stata lanciata in Israele, da parte della Vegan Friendly Association, una campagna che si chiama Veganismo al fronte, chiamata alle armi per sostenere i nostri soldati. Questa Vegan Friendly Association è stata fondata nel 2012 e proprio con l'intento di evidenziare le attività commerciali vegane in Israele, rendendo il veganismo più accessibile. E che scopo ha questa campagna? Aiutare i 50.000 soldati e soldatesse vegani che stanno, appunto, combattendo a Gaza. Stanno trucidando a Gaza, permettendogli, insomma, di mantenere la loro specifica alimentazione. E quindi lo scopo di questa campagna è proprio consentire che le razioni da combattimento vegane raggiungano le basi dell'IDF nel nord e nel sud della striscia. Questo obiettivo viene supportato da centinaia di volontari, insomma, che preparano queste benedette razioni di cibo, e questi volontari si chiamano Brother for Food, volontari da tutte le parti del paese. Ma vale la pena di leggere quello che è l'appello pubblico che gira nello Stato di Israele. Vegan Friendly ha bisogno del popolo di Israele, che ha dimostrato tutto il suo sostegno dall'inizio dei combattimenti, e per questo abbiamo lanciato la campagna di finanziamento. Con soli 120 shekel si può adottare un soldato e fornirgli una dieta vegana per un intero mese. Ci assicureremo di raggiungere i soldati, consegnare loro il cibo, far sì che ricevano il nutrimento di cui hanno bisogno, anche durante i combattimenti, e continueremo a gestire il progetto finché necessario, ha dichiarato Omri Pass, CEO e fondatore di Vegan Friendly, aggiungendo: con una donazione di soli $30 si può fornire a uno dei nostri soldati un pasto caldo, vegano, nutriente e di alta qualità, una fonte di forza quotidiana per un mese di servizio sul campo. Un esercito marcia anche con lo stomaco, i soldati devono essere in buona salute, non possiamo arrivare a una situazione in cui i soldati devono mangiare carne perché non c'è altro. Per il futuro di Israele, per la forza della nostra nazione, per il benessere dei nostri soldati devoti, restiamo insieme, uniti più che mai, insieme li raggiungeremo tutti, viva Israele. Ecco, questa, queste parole, insomma, che sono, che fanno veramente rabbia, ma anche, cioè, fanno molta rabbia, ma anche scombussolano, insomma, un po'. E, per fortuna scombussolano anche, insomma, la popolazione vegana, quella non quella per il quale il veganesimo non è solamente un'abitudine alimentare, ma una pratica di, che vuole evitare lo sfruttamento dei viventi, di qualsiasi essere vivente. E dicevo, queste parole scombussolano e fanno scaturire anche i vegani corretti, diciamo, che abitano in Israele, insomma, e quindi sì, questa cosa ha provocato abbastanza così critiche abbastanza forti e inviti a boicottare questo queste associazioni vegan friendly, che appunto non hanno niente a che vedere in realtà con il veganesimo, no? Perché appunto il veganesimo non è una pratica alimentare, non si capisce come soldati che sparano sui civili senza farsi nessuno scrupolo, bruciano case, ammazzano senza nessun problema persone disarmate, tra l'altro, poi possano essere vegane, insomma, questo è un controsenso. Ma per dire che sì, questa opera di mistificazione è veramente di mistificazione dei concetti e delle pratiche, è veramente raggiunge da parte della propaganda dello Stato di Israele dei livelli veramente inimmaginabili. E vabbè, per il momento basta con queste brutte robe e ci ascoltiamo un po' di musica e poi cambiamo argomento. Che stavamo ascoltando in sottofondo sono gli Anacharsis Clothes, con il loro album La Société des Tyrannies Seeds. Invece adesso cambiamo e torniamo a Pamplona, anzi a Burlata, con un gruppo che si chiama Banda Baciocchi. La canzone è Banda. Ah, esto sí, señoras, esto es Vía Satélite emitiendo para 5 continentes en los mejores hoteles del mundo. Sí, señores, se sintoniza Guski Ratia por el hilo musical y esta noche con ustedes. Prohíben manis, arriba tras una es ilegal. Por no hablar de Palestina o el Kurdistán. Hay esperanza con los pañuelos, se te paga. Cuba resiste, no lo rendiremos, hay que gritar. Y esta es la historia que Banda Baciocchi os viene a contar. Y esta es la historia que Banda Baciocchi os viene a contar. ¡Yepa! Vuestras fábricas os quieren chapar. Y aunque dan pochos que vuestras noches van a alumbrar. Desde Irlanda hasta el Sahara hay que pelear. Aquí está la banda desafinando con dignidad. Lanzando proclamas que mientras podamos algo quedará. Con mala hostia Banda Baciocchi un sonido brutal. Con muy mala hostia Banda Baciocchi sonido brutal. ¡Yepa! Ok, adesso invece restiamo sempre in zona, ascoltiamo un gruppo di San Sebastian, gli Arrozak, con Lurzoru Ostetik, è il nome dell'album, e iniziamo dall'inizio. Yeah. Sì, ritorniamo in voce. Cambiamo argomento, però prima di cambiare argomento volevo dire che non è un delirio quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato prima, cioè delle razioni vegane per gli assassini militari dell'esercito israeliano. Le fonti sono il Jerusalem Post e il Times of Israel, e l'articolo però è stato ripreso da Invicta Palestina, che è un blog che si occupa appunto di queste faccende. Allora cambiamo argomento, però rimaniamo sempre nel delirio, nel senso che rimaniamo sempre nel presente distopico del capitalismo avanzato, e però ritorniamo in Italia. E allora in Italia succede questo, che dal 2022 c'è stata un accordo tra il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e il Ministero della Giustizia, nello specifico il DAP. Allora questo accordo coinvolge praticamente molte carceri, e che cosa, perché le coinvolge? Intende mettere al lavoro, mettere in opera i detenuti. Loro dicono in questo accordo i detenuti interessati, evidentemente i detenuti che l'amministrazione penitenziaria intercetta, insomma individua. E appunto vuole mettere al lavoro questi prigionieri per attuare i piani dell'investimento del PNRR che riguarda le reti ultraveloci e 5G. Perché? Perché c'è carenza di personale per appunto la messa in opera di questa, della fibra. E quindi hanno pensato bene l'amministrazione, appunto il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e l'amministrazione penitenziaria hanno pensato bene di trovare questa trovata, appunto. E allora chi è che partecipa a questo accordo? Allora, in Fratelli Italia, il consorzio ASI Caserta, ANI e SIT, che tra l'altro ha sede, anche questa sede principale diciamo in Israele, e poi vari operatori: Telco, Fastweb, Fibercop, Telecom Italia, Vodafone Italia, eccetera eccetera. Allora questo accordo rimarrà valido fino al giugno 2026, e anche qui come si diceva prima, le parole cioè i significati rovesciati nel loro opposto dalle parole, viene diciamo presentata questa iniziativa come una un modello positivo di cooperazione tra istituzioni e imprese, volto a promuovere una cultura di coesione sociale e di reinserimento dei detenuti. E appunto addirittura Giovanni Russo, capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, dice che il loro mandato è quello di realizzare praticamente i principi della Costituzione, quindi la pena riabilitativa. E, ecco, quindi praticamente la società del controllo, che la società carceraria nel suo insieme del controllo, che sfrutta il lavoro dei detenuti, facendo passare questo come un'azione umanitaria. E, una frase che mi ha colpito è, loro parlano in questo accordo di abbattimento della recidiva, proprio così, abbattimento, quindi non si può altro che augurargli di un veloce abbattimento di sia del 5G che in generale di tutti i sistemi di controllo e di videosorveglianza. Un ulteriore accordo di cui si è avuto notizia oggi, che riguarda l'Italia e la Germania, sempre un accordo criminale, è quello tra Rheinmetall, l'industria degli armamenti gigante Rheinmetall tedesca, e la Leonardo italiana. E c'è in rete, ci sono dei video, veramente dei video propagandistici fatti da loro stessi, insomma, dove questi due, i due cingolani e l'altro non mi ricordo il nome, si così palleggiano, insomma si fanno le belle reciprocamente per aver stipulato questo accordo per la produzione di nuovi carri armati. all'avanguardia, diciamo, della tecnologia bellica e appunto questi carri armati l'Europa ne sentiva le necessità, perché appunto l'Unione Europea era carente dal punto di vista della piattaforma terrestre della difesa, e quindi ecco qui che Rheinmetall e Leonardo sono venuti in soccorso all'Unione Europea. Das Bad der Zeit. Va bene, adesso ci ascoltiamo gli All The Ways da Torino. I tuoi abbracci segnano la pelle. E in sintonia con la con il pezzo, con la canzone appena ascoltata, e vale la pena di dire che, insomma, di dire ai cosiddetti padroni della terra che poi però viene la notte, e con la notte può arrivare il grande distruttore e anche la grande falciatrice. E così introduciamo l'ultimo argomento, appunto. Siamo contro i nuovi OGM, il TEA, sono i cosiddetti, e stiamo anche noi dalla parte delle falciatrici. Allora, a che cosa ci si riferisce? Nel Pavese, un campo sperimentale di riso, chiamato Riso Ottimo, dall'Università di Milano, insomma, e dall'azienda agraria che appunto ha creato questa sperimentazione. Appunto, questo campo sperimentale di riso ottenuto con le tecniche di evoluzione assistita TEA è stato un paio di settimane fa completamente distrutto da ignoti che hanno manomesso la telecamera di sorveglianza, divelto la rete metallica e tagliato, pestato, appunto falciato, massacrato le piantine. E questo qua è veramente, questa falciatura è un importante gesto spontaneo volto a contrastare le nocività ecologiche e sociali e anche a come dicono i compagni del collettivo Terra Libertà, separare il grano dell'autonomia dall'olio del conformismo tecnoscientista. E allora, vabbè, è complessa insomma la faccenda di OGM e nuovi OGM, quindi OGM e TEA non si riesce ad affrontarla così in 5 minuti, ma magari appunto ci saranno sicuramente occasioni anche di parlarne diffusamente. E che cosa? Beh, intanto c'è questo contributo che è stato pubblicato sul Rovescio, che fa un po', sì, non solo spiega un po' la così tutta la vicenda, insomma, e il perché è importante combattere queste tecniche, ma spiega anche bene come, a differenza degli OGM, queste tecniche tendono a passare, diciamo, quasi inosservate anche in ambienti che erano contrari a suo tempo, insomma, agli OGM, e comprese tendono a essere legittimate queste tecniche anche da alcune organizzazioni che si definiscono ecologiste, ma che di ecologista hanno ben poco, che sono ormai mercenarie, diciamo. Beh, ci dicono, insomma, i compagni, da sempre le sementi hanno viaggiato insieme alle contadine e contadini che le hanno selezionate, migliorate, conservate e tramandate, però appunto con un procedimento, diciamo, lento e anche mutevole a seconda dei territori. Tutto questo, questi viaggi, queste modifiche, diciamo, delle sementi avvenivano gratuitamente, cioè contadini e contadini mettevano liberamente a disposizione delle comunità e del mondo intero questi cambiamenti, diciamo, empirici, cioè prodotti con il lavoro e con l'esperienza. Poi è arrivato il capitale, lo sviluppo, l'industria che si è impossessata della risorsa cibo, divenuta strategica per nutrire città, fabbriche, guerre e intere nazioni, e ha fatto accumulare montagne di denaro nei forzieri di pochi. Ecco che le sementi hanno sospeso il loro viaggio con le contadine e sono emigrate nei laboratori. Lì si sono trasformate inizialmente in risorsa, tra virgolette, per i popoli, poi per gli stati, poi ancora in patrimonio genetico a disposizione della scienza, che, ci dicono, sia degli stati e sia al servizio di tutti, ma non è vero. Ed infine hanno imboccato l'autostrada delle privatizzazioni neoliberiste. Brevetti, brevetti, brevetti, la proprietà privata si estende a tutto il vivente, al seme, alle piante che nasceranno da quel seme e che dovranno avere tutte le stesse caratteristiche oggetto del brevetto, lealtà commerciale e serietà professionale. Che cazzo! Seguitando il mantra della rivoluzione verde e della green economy, anche nel caso degli OGM e TEA ci dicono che sono importanti per produrre più alimenti necessari all'aumento demografico. Oggi hanno un'altra emergenza da fronteggiare: il cambiamento climatico. Balle su balle su balle. La produzione industriale del cibo non ha mai risolto nessuno dei problemi che annuncia di voler risolvere e che in alcuni casi ha addirittura lei stessa creato. I brevetti sulle sementi sono il paradiso di chi si vuole accaparrare tutto e l'inferno della biodiversità e della natura stessa. Il paradiso per i soggetti forti, centralizzati e potenti, l'inferno per le piccole economie di villaggio e per quel che resta del mondo indigeno contadino. Ecco, ed è proprio per questo che siamo felici di questa falciatura, stiamo con le falciatrici e condividiamo ciò che dicono i compagni, e cioè che spetta a noi estendere la lotta, amplificarne la comprensione, cioè affrontare queste faccende e non lasciarle in mano al nemico, fare breccia contro l'oscurantismo scientista e i suoi apprendisti stregoni. Eccoci qui a cercare ricordi. A cercare ricordi, eccoci qui a cercare ricordi. Ho soluzioni. Eccoci qui, eccoci qui, eccoci qui, eccoci qui. Va bene, adesso abbiamo appena cambiato gruppo e ci stiamo ascoltando i No So Far di Trieste. E loro, con altri gruppi che ascolteremo fra poco, suoneranno il sabato 6 luglio dalle 19 a Trieste, e per un concerto benefit e per dei processi risalenti al 25 aprile dell'anno scorso, e antifascista quindi, e ci saranno DJ set, banchetti e distro in Largo Santos, a Extritovic, a Trieste, organizzato dai ragazzi di Trieste Hardcore e il collettivo Buriana. E intanto ci ascoltiamo i No So Far e dopo vi mettiamo anche qualche altro gruppo che suonerà quella sera, e per chi può essere presente ci vedremo là. Nothing. E abbiamo ascoltato i No So Far. E volevo giusto raccontare in breve cosa era successo in quel 25 aprile del 2023. E fuori dalla risiera di San Sabba, noto campo di concentramento, dove si stava svolgendo la manifestazione istituzionale del 25 aprile, un gruppo di compagni, ragazzi e ragazze, giovani e meno, si voleva avvicinare per manifestare il loro antifascismo, il fatto che non sia una ricorrenza, e mentre giocavano con un pallone, volevano prendere parte alle manifestazioni, alle celebrazioni, a loro modo, sono stati fermati e divisi e gli è stato impedito l'accesso alla risiera di San Sabba dalla polizia, con azioni violente, e insomma qualcuno è stato anche denunciato. E in sostegno a questi processi e agli avvocati anche si ritroveranno per mangiare e ballare sabato 6 luglio dalle 19, e adesso ascoltiamo un altro dei gruppi che suoneranno, che sono i Lis Pegris, To The Steak. I'm fire, I am fire, and my blood is being sour. Dry and fire, yet my blood is peeling sour. Good, bad, family, my neighborhood is on TV. We'll be right back. Va bene, allora siamo in chiusura e volevamo ringraziarvi per l'ascolto e ricordarvi che questa trasmissione va in replica su Radio Azione Web Radio dalle 17 il venerdì e ci potete trovare su zardinsmagnetixradio.noblogs.org per il podcast. Se volete scriverci, l'email è liberetutti@autistiche.org. Invece per chi non avesse la possibilità di accedere all'internet o anche chi si trovasse in situazione di prigionia può scrivere delle lettere classiche all'indirizzo Associazione Senza Sbarre, codice postale 129 Trieste Centro 34121. Ripeto, Associazione Senza Sbarre, CP 129 Trieste Centro 34121. Vi ringraziamo per l'ascolto e ci sentiamo alla prossima puntata di Zardins Magnetics.